Achtung, Liebfrau Milch in Porsche. Paar Vorsprung durch Technik, Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Boris Becker, Himmel, boom, boom. Ich bin ein Berliner. Buonasera, chi vi parla dagli studi di Radio Kairos come sempre e per la nona stagione è Claudio Montimai. Abbiamo fatto delle ferie molto molto brevi e siamo qui per presentare oggi per l'unica volta, per due volte di seguito, la nostra nuova sigla, ovvero una versione ancora diversa, sempre più surreale, sempre più demenziale dell'Inno alla Gioia. In questo caso si parla del Rowan Atkinson che si improvvisa un baritono che durante l'esecuzione dell'Inno alla Gioia in tedesco perde i fogli con le parole e improvvisa dicendo insomma un po' tutte le espressioni più conosciute tipo Ambier Bitte, Jürgen Klinsmann ist kaputt. E questa è la nuova sigla che ci porteremo dietro per questa nona stagione di Might FM, come passa il tempo quando ci si diverte. E siamo qui per parlare di una personaggia, di una artista a tutto tondo che diverse volte già ha fatto la sua comparsa a Might FM, ma che adesso si è meritata veramente una puntatona a lei dedicata, perché ha fatto un disco molto molto bello di cui andremo a parlare nella prossima ora e 45 minuti. Un disco che si chiama Okovi, è uscito l'8 settembre per la Sacred Bones Record e si apre con questo inno Doma, a cui seguirà il primo singolo e il primo video tratto da questo album, ovvero Exhumed. Stiamo parlando di Zola Jesus, al secolo Nicole Hummel, anche se nessuno lo riporta perché ormai lei da sempre ha acquisito l'identità di Nika Rosa Danilova, e parleremo anche del suo essere americana ma del sentirsi profondamente legata a delle origini, delle tradizioni della sua famiglia che discende a suo dire da delle tribù nomadi di contadini tedeschi, poi emigrati verso la Russia e poi stabilitisi in Ucraina per trovare delle terre dove poter campare. E appunto questo senso di casa è anche un tema base della ricerca di questo disco. Infatti questo pezzo si chiama Doma, ovvero casa in russo, ma viene chiaramente anche dal latino domus, casa o a casa. Take me home, canta Nika, questo desiderio di ricerca di radici per cui è tornata nella terra dove è cresciuta e dove ha composto questo disco, ma dove ha dovuto combattere i suoi demoni e superare non solo la propria depressione ma anche insomma il malessere che le circondava di persone a lei care che per malattia o per male di vivere hanno appunto attraversato dei momenti terribili. Ma non un disco negativo, oppressivo, ma un disco alla fine di consolazione e di speranza. Zola Jesus, Okovi. We'll be right back. questo pezzo lei ci racconta che nasce proprio dalla rabbia, come se fosse rosso e nero come il sangue, contiene tutta la rabbia, il risentimento, il lutto, la depressione, però un grido di battaglia in una situazione di impotenza, con il desiderio però di trasformarlo in forza e controllo. È un pezzo frustrato, violento, lei dice denti e artigli, rabbia primitiva, che poi sono le armi degli animali, quelle con cui gli animali sono nati, denti, artigli, e le parole vengono appunto anche da questo luogo selvatico, questo immaginario di uso di unghie e denti e mascelle e morsi come un animale, perché lei si sentiva così, come un animale. Un pezzo che ha preso quota perché diciamo che c'era la prima frase musicale, il primo minuto, e che poi si sblocca dopo 2 anni diciamo di blocco creativo relativo a questo pezzo, si sblocca quando gli viene in mente questa frase che poi accompagna in sottofondo il pezzo. Il verso che dice let it sink, don't let it hold you down. Appunto lei racconta che stava nella stessa stanza con il suo amico produttore, co-produttore responsabile del mixaggio del disco, collaboratore da anni, Alex De Groot. Dice mi è venuta in mente questa frase melodica e la cantavo a voce bassa perché non volevo disturbare. Se invece fossi stata da sola avrei urlato a pieni polmoni come faccio di solito e non sarebbe venuta fuori la stessa cosa. Dicevamo Nika, suo pseudonimo Nika Rosa Danilova, cresce in un paesino rurale del Wisconsin, anzi in una fattoria a 100 acri di terra, di campi e foreste, dove i suoi genitori hanno costruito una casa, anche un senso di isolamento da bambina, solo un fratello di un anno più grande, e nel 2006, quindi a soli 17 anni, perché ne ha ancora solo 28, è nata nell'89, forma la sua band, nasce il progetto Zola Jesus, che è la sua grande passione per la letteratura francese, Emile Zola, che studierà poi anche all'università. E appunto nel 2008 che esce un primo singolo di 3 pezzi, quello che stiamo sentendo, Poor Sons, perché c'è questa cosa che anch'io quando l'ho conosciuta, che sarà stata intorno al 2010, ero già impressionata dalla quantità di roba, di singoli, di EP che ha pubblicato. E la caratteristica iniziale è appunto di un suono sperimentale, il noise e il lo-fi non si sa se per gusto estetico o per necessità, visto che non aveva accesso ai mezzi. Si sente appunto anche il ronzio del registratore in questi pezzi. Questo è il secondo singolo, Sir Sewer, con la B-side Odessa, poi l'ho raccolta contenuti in altri singoli EP raccolte, anche un EP nel sempre nel 2008, New Amsterdam, anzi no, nel 2009, ma dove ne ha fatto ancora un altro, Zar Bomba, che più o meno i pezzi un po' si ripetono. Oh, quello che si dice di lei, sempre opera trained, il fatto che ha studiato opera lirica dall'età di 7-8 anni e non era un tipo di musica che si ascoltasse in casa, ma probabilmente lei dice: io da piccola devo aver sentito un'aria e mi sono fissata sulla potenza di questo suono, ho implorato i miei genitori di farmi prendere lezioni e ho studiato opera in modo, diciamo, discontinuo per circa 10 anni, ma sempre in contesto privato, non è che ha mai partecipato ad uno spettacolo, appunto proprio ad una recita. Perché praticamente questo studio è sempre stato, diciamo, castigato da quest'ansia di non essere all'altezza, di non essere abbastanza brava, e poi da questa proprio performance anxiety, che è curioso visto poi invece la quantità di musica che ha prodotto, ma anche la quantità di tour che ha fatto per presentare la sua musica in tutto il mondo. Quindi appunto crescendo in questo ambiente rurale nel Wisconsin, lei dice: da piccola avevo molta immaginazione ai limiti dell'allucinazione, e le nasce la curiosità di esplorare l'effetto fastidioso, il disagio che ti può procurare certa musica, e quindi scopre il noise. In più lei dice: forse ho letto Dostoevskij e Nietzsche un po' troppo presto per la mia età, quindi una fascinazione per il passato, per la filosofia, per il situazionismo alle superiori, appunto vivere la vita come l'arte, life as art. Anche se nella sua musica il noise è sempre stato unito con una tendenza, proprio una facilità nel creare melodie, questa voce così potente, quasi questo muggito da contralto lirico. E appunto va a fare l'università a Madison, Wisconsin, l'università Wisconsin, dove probabilmente conosce altri musicisti e in particolare conosce i Former Ghosts, ovvero gli autori di questo bellissimo pezzo che abbiamo riscoperto oggi. Ci ricordavamo che c'era un pezzo che ci piaceva molto dei Former Ghosts. Ce li ricordiamo, il primo album Fleur nel 2008, un progetto al quale ha partecipato, di cui ha fatto parte anche Jamie Stewart degli Shushu. Anzi, viene quasi considerato un membro dei Former Ghosts, progetto di Freddie Ruppert. Abbiamo detto appunto, tra gli altri, ha partecipato Jamie Stewart, anche Carla Bozulic. E Nika canta in 5 pezzi del primo album Fleur del 2009 e poi in 2 del successivo New Love, da cui appunto stiamo ascoltando questa molto bella New Orleans. Fell in love in the first place. It's all the first place. If you mean the city, take me with you. But don't look back. If you E dopo un primo singolo pubblicato per questa misteriosissima etichetta di Stasi, viene scoperta dalla Sacred Bones Record di base a Brooklyn, fondata da poco nel 2007, una delle etichette indipendenti più apprezzate della scena indie americana, che appunto raccontano, l'abbiamo scoperto su MySpace, perché era quello il periodo, insomma, una modalità con cui si scoprivano le nuove band emergenti. Quindi già il secondo singolo, Sir Sewer Odessa, viene pubblicato dalla Sacred Bones Records. L'Università del Wisconsin studia francese e filosofia. Lei racconta che praticamente il progetto musicale ha preso proprio forma negli anni dell'università, poi registrava magari in casa, nella sua cameretta, nelle pause tra gli esami, e poi incontra anche suo marito, perché lei faceva una trasmissione di musica sperimentale alla stazione radio dell'università, e il direttore della programmazione era un entomologo che poi appunto ha sposato Adam Higgins, e pare che appunto i musicisti che all'inizio l'hanno accompagnata nel suo progetto Zola Jesus fossero alla fine i migliori amici di Adam. Ma noi stiamo parlando di quello che viene considerato il quinto o il sesto album di Zola Jesus. Che dopo la rabbia di Exhumed ha questo passo un po' trip hop molto molto intenso, suono quasi da sacro per me, liturgico. Se questo incedere così trip hop è stato paragonato, da quello che ho letto, dai Massive Attack a Fever Ray e anche a Dido. È un pezzo veramente, veramente bello. Per un disco dove forse Zola Jesus ha veramente raggiunto la sintesi tra la tendenza più sperimentale e la melodia, anche i famosi hook più pop. Abbiamo detto, molta parte del disco viene da esperienze personali dirette. Questo pezzo, Soak, invece, è un'altra storia, è una storia immaginata. Io stavo facendo delle ricerche sui serial killer e lei dice: inizialmente ho scritto Soak attraverso le lenti, lo sguardo di una vittima di un serial killer, viva a malapena, che sta per essere gettata, annegata, affogata nell'acqua, e stavo pensando al momento cruciale dentro la mente della vittima, quando sa che morirà e ripensa alla sua vita e alla futurità delle decisioni che ha preso, quando alla fine la sua vita viene così interrotta contro la sua volontà, e si chiede che punto, cioè che senso ha cercare di andare avanti nella vita, di tirare avanti, di cavarsela, se poi alla fine non puoi neanche scegliere come morire. E quindi invece di lasciare il suo fato nelle mani di qualcun altro, lei si riprende il controllo, rigira la situazione e dentro di sé lei decide di morire. Quindi lascia che l'assassino in qualche modo la assista nel suo suicidio. Wow. Ovviamente noi ascoltiamo il disco e ne parliamo, perché ovviamente speriamo che poi chi apprezzi e ascolti se solo possa godere nella sua cameretta o nelle sue cuffie. E abbiamo voluto mettere in scaletta anche Chelsea Wolf, questo pezzo nuovissimo tratto dall'album uscito ovviamente da 6 giorni. Il pezzo si chiama Offering. L'album si chiama His Spun. Perché hanno iniziato a incidere, insomma, a essere conosciute più o meno negli stessi anni, anche se Chelsea Wolf ha una tendenza che va da una parte più sul folk e più sul metal, ma il fatto che fossero due donne giovani che insomma si presentavano con un'immagine, con dei suoni abbastanza cupi, oscuri, eccetera, le ha fatte sempre spesso mettere nella stessa frase, con grandissimo fastidio da parte di Chelsea Wolf, non so se anche da parte di Zora Jesus, ma questa è Chelsea Wolf. Californiana, classe 83, ormai è arrivata al quinto album, dopo si è fatta conoscere con Apocalypse, poi il bellissimo Penis Beauty, poi Abyss e questo ultimissimo, nuovissimo His Spun. Ma dicevamo appunto di quanto fossero frequenti le uscite e le pubblicazioni dei dischi, dei singoli, degli EP di Zola Jesus, Nika Rosa, Danilova. Ma il primo e vero e proprio album esce sempre nel 2009, quando già erano usciti 2 EP che raccoglievano alcuni dei pezzi già pubblicati nei primi singoli, ma poi sono pezzi che vanno e vengono, che ritornano anche dopo qualche anno. Il primo vero e proprio album è The Spoils del 2009, sempre Sacred Bones. Da quel momento in poi, del secondo singolo, Sursuer inciderà sempre per la Sacred Bones Records, come questo ultimo bellissimo Okovi. Tranne un'eccezione importante, nel bene e nel male, forse più nel male, ma ne parleremo più tardi. Abbiamo scelto di far sentire da The Spoils 2 pezzi, Devil Take Me e quello che poi è il poi primo video ufficiale che almeno noi abbiamo trovato e l'abbiamo postati tutti, ovvero Clay Buddies, The Spoils. Yeah. appunto tutte le registrazioni erano molto molto lo-fi, tanto è vero che si è anche, diciamo, invitato il rimprovero dei genitori che gli hanno detto: ma perché si sente così male, deve andare in uno studio vero e proprio. E lei nell'intervista ha detto: beh sì, a me piacerebbe moltissimo ripulire il mio suono, se avessi i mezzi per farlo non ci penserei un attimo. Questa batteria, questo ritmo assolutamente Just Like Honey e Jesus Mary Chain. Appunto, alla domanda se volesse fare in futuro delle registrazioni più professionali, ha detto sì, mi piacerebbe tanto, ma se non hai i mezzi per fare dei bei dischi da suono chiaro e cristallino, allora tanto vale produrre un suono più grezzo possibile, nella serie Moglie Sansone con tutti i filisteri. Ma poi invece sentiremo come progressivamente il suono si ripulirà, perché i mezzi, insomma, sono a disposizione, sono aumentati. Diciamo che Okovi è veramente il trionfo di questo suono così puro e cristallino. E già in questi pezzi appunto si sente un po' più di melodia per un progetto, quello di Zola Jesus, che nasce proprio come una reazione, come un tentativo di riconciliarsi con la propria voce, perché appunto questo desiderio di studiare l'opera lirica, però della paura di non essere all'altezza, di rispettare delle regole rigide, degli standard rigidi tramandati da secoli, l'ha portata invece a voler creare una cosa esclusivamente sua, dove appunto le regole le fai tu, fai quello che vuoi. Mentre con la tua musica appunto hai il controllo totale, crei il tuo universo di suoni, di contenuti. E questo ha portato ad un empowerment graduale, disco dopo disco. The Spoils appunto del 2009 è considerato, sì, ovviamente, il primo vero e proprio album che contiene ancora strumenti tradizionali come la chitarra, il basso, la batteria, il pianoforte e, diciamo, una delivery, un'esecuzione vocale un po' piatta e distante, piena di riverbero, coperta da strati di grida, ululati. Un disco che, diciamo, la mette sulla mappa della musica alternativa americana. Comunque ricordiamo che quando ha fatto questo disco aveva 20 anni. Nel 2017, adesso a 28 anni, siamo arrivati a Okovi, non so come si pronunci, lo statement pubblicato da lei sulla genesi di questo disco dice: l'anno scorso mi sono trasferita, sono tornata nei boschi del Wisconsin dove sono cresciuta, ho costruito una casetta a qualche passo di distanza da dove avevo costruito il mio forte sull'albero quando ero piccola, e dove appunto questo forte sta ritornando ad essere in tutt'uno con la terra. E Okobi è stato nutrito da questo ritorno alle radici, cioè questa ricerca di radici. Le dice: io le ho, cercavo le mie radici, le ho trovate dove le avevo lasciate, nella casa in cui sono cresciuta. E il disco nasce da appunto molti traumi personali. Questo è il quarto pezzo del disco dopo Doma, Exhume e Soak. Pezzo molto breve, si chiama Ash to Bone. Questo pezzo parla della fuschia, proprio dello stato di confusione in cui ti mette la depressione. Le dice: per un sacco di tempo mi sono sentita immersa in questa nebbia spessa, dove tutte le persone che amavo erano dall'altra parte e io invece galleggiavo in questo mondo a parte, così alienata dalla realtà, impotente e quasi bloccato in una specie di stato onirico, quei sogni dove cerchi di urlare ma non ti viene fuori la voce e nessuno ti può sentire. E anche appunto questo minuto, un pezzo di 2 minuti, le dice: non c'è un pezzo del disco che non meriti di essere lì, sono tutti pezzi necessari. E questa invece è un'altra ospite che abbiamo voluto inserire. Si tratta di Olga Bell, l'abbiamo già sentita per il bellissimo, trescissimo, tamarrissimo pezzo Randomness, come uno dei migliori pezzi del 2016 per Pitchfork, tratto da Tempo, appunto, dell'anno scorso. Questa è Power User. E perché? Perché lei è nata in Russia, ma da piccola, da bambina, si è trasferita in Alaska con sua madre. E ho trovato questo articolo, questo essay ad opera di Nika Danilova, dove parla di un altro disco, non di questo, un disco precedente, Cry, di Olga Bell, e dove racconta il rispettivo senso di identità russa che possono avere, insomma, il suo comparato a quello di Olga Bell, e quindi appunto ci dice molto su questa idea di essere russa, per cui si è creata questo alias Nika Rosa Danilova. E lei racconta: io come russa americana sono sempre stata molto, molto consapevole di me stessa, ma cosa significa esattamente essere russo? Forse il mio essere russo è più complicato di quello di Olga Bell, perché la mia famiglia viene da una tribù nomade di coltivatori, di contadini che hanno viaggiato, come ho detto prima, in Russia e in Europa dell'Est, alla ricerca di terra fertile e di libertà, e dopo aver vagato per anni alla fine si sono stabiliti nel sud dell'Ucraina, fuori Odessa. Ma poi si aggiunge un altro strato, perché sebbene appunto la famiglia venisse dall'Ucraina e ha vissuto lì per centinaia d'anni, venivano da qualche parte in Germania e quindi venivano considerati stranieri dai russi e dagli ucraini, venivano chiamati Nemets, la parola russa per tedesco, in cui venivano denominati i tedeschi, e gli venivano dati meno diritti dagli altri russi. Quindi la mia famiglia, racconta, l'identità della mia famiglia è stata sempre confusa e rifiutata. Loro erano russi, si sentivano russi fino al midollo, perché quella era l'unica madrepatria che conoscevano, però venivano spesso considerati come degli outsider. E dopo l'arrivo di Stalin al potere, il governo russo minacciò appunto di toglierli la terra e di esiliarli in Siberia, ed è per questo che poi sono andati negli Stati Uniti, suoi nonni, immagino. I see you come down. Tell me dance at a repertoire. Now I'm so ready, I'm so ready, I'm so ready. Ed è proprio in questa terra cui sono arrivati i suoi nonni e dove i genitori hanno costruito la loro casa che lei si è andata a rifugiare dopo appunto esserci cresciuta, e il fatto appunto di essersi stabiliti in una zona più o meno selvaggia conferma appunto il senso di indipendenza della famiglia, del popolo da cui la sua famiglia deriva. Dice, loro si sono adattati ad essere americani, ma la loro anima invece è la stessa e viene da lontano, e lei ha proprio adottato completamente questa identità. E questo è un altro pezzo della sua estesa produzione dell'anno 2010 con lo Stridulum EP e il Valusia EP, da cui viene questa molto bella Poor Animal, poi praticamente uniti in Stridulum 2, considerato il secondo album sempre nell'anno 2010, quindi subito dopo The Spoils. Che questo pezzo ha un'apertura molto positiva come suono sperimentale, noise, lo-fi, con una tendenza crescente al synth pop e le accezioni più o meno scure, e poi sono tutte le etichette che ti vengono appiccicate nel corso del tempo, da dark wave a Witch House. Infatti sotto questa etichetta poi l'abbiamo ascoltato Zora Jesus nelle nostre trasmissioni dedicate a Crystal Castles o a Grimes. E questo pezzo, quando l'ho riascoltato, mi ha fatto ricordare le due volte che l'ho vista dal vivo, ma soprattutto ci sarà una terza volta, e sarà abbastanza presto e sarà abbastanza vicino, sì, perché il 15 novembre al Locomotive Club di Bologna verrà quella che noi abbiamo sempre affettuosamente chiamato Zola Predona, e solo chi è di Bologna e dintorni può capire. Un artista che è in ricerca continua, anche lei dice ogni disco è un passo in più. Cioè, per esempio, in quel disco non avevo usato questo tipo di percussione perché lo odiavo, mi dava fastidio, quindi cosa ho fatto? Nel disco successivo ho messo in pratica, proprio sviluppato quei suoni che odiavo, proprio per rompere l'abitudine, per forzarmi, per spingermi e poi appunto per sentirmi a disagio. E questo, unito anche a una terribile preoccupazione per la performance vocale, su cui invece poi ha sviluppato insomma un totale controllo. Il suo strumento principale è la voce, dice, io appunto lo considero il mio strumento, e anche per questo che ha espresso anche molta aspirazione per Björk, perché dice anche la sua produzione a livello musicale non è coerente, è cambiata molto nel tempo, però la costante che la rende riconoscibile è proprio l'unicità della sua voce, e quella di Mika è altrettanto unica. E finisce Poor Animal, tratto da Valusia, e arriviamo ad un pezzo, uno dei pezzi più nominati nelle varie recensioni e articoli, con questo inizio così dolente e maestoso allo stesso tempo. Si chiama Witness, è il primo di due pezzi uno dietro l'altro che si rivolgono alla stessa persona. sempre riprendendo lo statement che ha pubblicato. Mika dice: mentre scrivevo Covi mi già stavo male, ero depressa, stavo male, ho lasciato Seattle per trovare le mie radici in uno stato di depressione. Mentre scrivevo questo disco ho trovato comunque una situazione in cui delle persone molto vicine a me cercavano di morire, tentavano il suicidio più di una volta, mentre altre cercavano disperatamente di non morire. Le persone care, queste sono state diagnosticate delle malattie. Cioè, nel frattempo io stavo lottando attraverso appunto questa coltre, questa foschia così spessa, che non ero sicura di trovare una strada per andare dall'altra parte, perché la morte, con tutte le sue maschere, era vicino, stava accerchiando tutte le persone che amavo. E da questo sono venute anche le domande, non solo sulla vita e la morte, su come noi siamo legati indissolubilmente alla vita e alla morte, e come esse siano legate tra loro, perché la prima cosa che si legge in tutti gli articoli e le recensioni è il significato di questa parola, Okovi, che nella molte lingue slave significa quello che in inglese viene tradotto come shackles, che sarebbero le catene, i ceppi che si mettono ai polsi o alle caviglie. E ha pensato a questo concetto di quello che alla fine unisce tutti questi popoli, i popoli slavi che sono sempre stati in contrasto gli uni con gli altri, che ancora hanno questi rancori mortali dopo secoli di lotte, eccetera, ma anche appunto gli esseri umani e gli esseri umani alla vita, alla morte, ai nostri corpi, alle nostre menti, alle malattie, alle altre persone. Siamo tutti legati, incatenati a qualcosa che ci unisce, anche qualcosa che ci opprime, che ci blocca, che ci inchioda. Alla situazione in cui nasciamo, lo stato, la razza, la famiglia, al dovere. Ognuno di noi è nato con un debito unico e noi abbiamo questo debito finché non moriamo e lo ripaghiamo, perché senza il pagamento di questo costo, cosa ci dà il diritto di vivere e soprattutto cosa ci dà il diritto di morire? Ma siamo poi davvero liberi di scegliere? Quindi dice: questo album è profondamente personale, sono delle istantanee sulla perdita, la riconciliazione e l'empatia nei confronti delle catene che ci tengono appunto tutti inchiodati per le leggi della natura, che sono spietate, che non perdonano. E quindi, per portare in vita questo disco, ho deciso di chiedere l'aiuto appunto di Alex De Groot, mio vecchio amico, che è stata l'unica costante nella band, che mi ha sempre accompagnato. E poi questo disco, lei dice, è stato appunto questo l'annuncio dell'uscita del disco, verrà pubblicato da Sacred Bones, il gruppo di persone più vicino che oltre alla mia famiglia. Infatti era questo il rapporto profondissimo con questa etichetta. E l'inizio di Witness mi ha fatto subito venire alla mente le melodie, le atmosfere luttuose, tristi, ma sublimi dei Dismortal Coil, nello specifico questo pezzo, I Come Stand at Every Door, dove parla la morte, tratto da bellissimo Blood del 91. My eyes grew dim. ritornando appunto al contenuto di Witness, il pezzo di Solo Jesus dedicato alla stessa persona. Ha tentato il suicidio due volte, lei dice, qualcuno molto vicino a me ha cercato di suicidarsi la scorsa estate e in quel momento io ero isolata appunto in una baita nei boschi e non potevo entrare in contatto, non potevo raggiungere questa persona, sono andato nel panico perché avevo bisogno di fargli sapere quanto fosse importante per me e quindi ho fatto l'unica cosa che potevo in quel momento, cioè ho scritto una canzone. E anche la decisione di dare un arrangiamento, una musica di tipo puramente orchestrale, che è stata una scelta consapevole per impedire che il pezzo fosse radicato in un contesto temporale specifico, in modo che la canzone appunto fosse senza tempo, perché questa lotta contro la morte è qualcosa che appunto tutti gli umani hanno sempre vissuto, hanno sempre affrontato da quando abbiamo assunto la consapevolezza, la coscienza di cosa significa essere vivi e di cos'è la morte. Cioè, scrivere questa canzone è stato sia molto facile che molto difficile, non c'è stato nessun editing, è venuta fuori esattamente come si sente, ma allo stesso tempo cantare quelle parole per la prima volta è stato molto doloroso. E in questi appelli a rimanere viva questa persona cara, che invece sembra che voglia, abbia un grande desiderio di morire, lei non usa tante metafore poetiche, distanti, ermetiche, eccetera, fa proprio degli appelli molto, molto diretti, soprattutto nel pezzo successivo. E in quel pezzo Witness dice: noi vediamo che persona meravigliosa sei, e io vorrei che tu fossi testimone di questa cosa, tu stesso, se potessi vederlo da fuori, potessi vedere con le tue ferite, ma resistere e riuscire a tenere quel coltello lontano da te. E il modo in cui appunto Nika ha cercato una via per andare dall'altra parte, per uscire dalla propria depressione, dal proprio stato di malessere, e anche aiutare l'altrettanto ad uscire dallo stesso malessere delle persone vicino a lei, quindi grandissima empatia, quindi il desiderio di fare tutto il possibile per tirare in là dall'orlo del baratro le persone care e in questo modo salvarsi allo stesso modo. Ma dicevamo, dopo Stridulum EP e Valusi EP sono stati uniti in Stridulum 2, uno dei dischi, forse il disco più apprezzato finora, direi, della carriera di Isola Jesus, che contiene appunto questo pezzo che stiamo ascoltando, Night, a cui abbiamo messo di seguito un altro pezzo, Sea Talk, che era già apparso in un disco due anni prima, appunto questo ritorno continuo di pezzi rivisti e rielaborati, Night e Sea Talk da Stridulum 2. Importante, Stridulum è stata l'ispirazione di questo disco, ovvero un film di fantascienza del 79 di un attore, prima attore, poi regista, Giulio Paradisi e anche fatto il ruolo del paparazzo nella Dolce Vita, poi è diventato appunto regista, questo film del 79, una coproduzione italo-americana, infatti c'è anche il titolo americano che è The Visitor oltre a Stridulum, e io me lo sono fatto rifare e mandare dalla mia fonte di questo genere cinematografico, ovvero la Barbona Novarin, che ringrazio, ma non ho fatto in tempo a guardare il film, ma lo farò. Questo pezzo appunto nelle percussioni, nel ritmo e poi anche nei synth sembra un omaggio sfacciato a Atmosphere di Joy Division. E questo mi ricorda un'altra cosa relativa ai Joy Division, che ho letto sui Former Ghosts, appunto il gruppo con cui ha collaborato da sempre, cioè dal primo disco che è il secondo del 2010 e poi dall'ultima altra unica terza produzione, ovvero un singolo del 2015 in cui sempre Nika canta, The Former Ghosts, del debutto Pitchfork scrisse: come se Ian Curtis avesse comprato un Casio e un registratore 4 piste e avesse licenziato il resto dei Joy Division. Insomma, il 2010, oltre a diverse pubblicazioni, la vede anche andare in tour in supporto a Fever Ray, nel tour europeo e anche in tour con gli XX. E poi Discogs mi dice anche che nel 2010 è questo side project che ha prodotto solo un singolo sotto il nome di Nika più Rory. Che poi tutte le canzoni a un certo punto in poi possono essere appunto dei cori da stadio, degli inni da ballare e da cantare, e anche poi parleremo anche del potere salvifico del ballare. Ma appunto 2010-2011 Zola Nika fa un altro salto, ovvero viene chiamata per cantare insieme a Anthony Gonzalez Intro, il pezzo appunto, primo pezzo di apertura di Hurry Up World Dreaming, a cui noi nel novembre del 2011 dedicammo una puntatona, e chi ci conosce lo sa quanto siamo legati anche a Midnight City e a questo disco, e viene appunto fatta conoscere, come ottiene successo planetario MAT3, viene anche fatta conoscere Zola Jesus, che poi quello stesso anno pubblica il disco successivo, appunto 2009, 2010, 2011 con Atus, ma ne parleremo. Carry on. Abbiamo fatto un'eccezione, perché ovviamente l'abbiamo già sentita da Matt FM, ma ultimamente sto facendo diversi, perché ci sono dei pezzi da cui non si può prescindere. E ce lo teniamo in sottofondo per dare un'occhiata sempre alle critiche, alle recensioni di Okovi, che già nella nostra fonte Metacritic, che vede i risultati aggregati della critica specializzata, dà un voto di media di 78 su 100, user ovviamente più alto, 88 su 100, e il voto più alto è un 9.191 di Pretty Much Amazing. E leggiamo quella: album cupo musicalmente nei contenuti, ma Danilova trova bellezza e speranza in quel buio, creando uno struggente capolavoro, heart wrenching. Doma, sensazione di pace che viene spazzata via dalla rabbia terrificante di Exhum. Soak, appunto, viene dalla ricerca sui serial killer, riflessione sulla vita di una donna tra lutto e senso di colpo. Ash to Bone, riflessione sulla depressione, sull'orlo tra vita e morte, continuo dilemma su quale direzione prendere, crisi esistenziale come in Wise Blood e Remains, che ascolteremo, ma momenti di speranza in Witness e Siphon, che è il prossimo pezzo che ascolteremo dal disco, perché il dolore può passare, ci sono persone che tengono a te. Forse un album macabro, ma Okovi risplende nella sua capacità di illustrare meravigliosamente un'esperienza umana disturbante, ma in definitiva condivisa da tutti. Poi di AV Club, sempre 91, Okovi è pura, genuina Zola Jesus. Con Taiga, il disco precedente, 2014, voleva conquistare le classifiche, ma ci sono due cose che glielo impediscono: la sua voce potente, però io dico che è nelle canzoni più pop, appunto, si avvicina a quella di Christina Aguilera, e la profonda intensità delle sue canzoni, dove usa una poetica spoglia ed enigmatica per evocare sentimenti di paura, dolore e a volte amore e conforto, anche se alcuni testi, come quello del pezzo che ascoltiamo adesso, è molto molto diretta, non fa giri di parole, non fa metafore poetiche. È il secondo pezzo dedicato a questa stessa persona cara, lei dice è un familiare, insomma un parente che ha tentato il suicidio due volte, un veterano dell'esercito americano. E questo pezzo è Siphon, che inizia così, come se fosse cantato sopra le onde di un oceano, e entra il ritmo. Cioè, questa canzone proprio chiama lo sbattimento di testa, il movimento, il ritmo e il canto in coro. Questo coro, questo ritornello che dice: perché noi come famiglia, come persone che ti vogliono bene, preferiamo pulire il sangue di un uomo vivo, preferiamo chinarci su di te e stringerti la mano, perché odiamo, non sopportiamo il fatto che tu ti arrendi a queste fredde notti buie dentro la tua testa. E quindi proprio è un appello molto diretto, non ci sono giri di parole. Cioè, vogliamo solo salvarti e tirarti fuori da queste notti oscure. Vogliamo mostrarti che la vita è qualcosa di più di questo. Questa per me è la parte più bella, ritorna un po' questo suono da canto rituale, forse tutte le persone care attorno a questa persona che gli dicono: non ti lasceremo sanguinare a morte, non possiamo permetterlo. Non so, secondo me, intendevo il suicidio dopo due settimane, è una cosa, cioè veramente una cosa orribile. E lei dice: è tragico guardare qualcuno a cui tieni attraversare tanto dolore fisico ed emotivo, quindi l'empatia per la loro battaglia, la loro lotta mi ha riempito di una pesantezza insopportabile, e quindi la musica mi ha aiutato a farmi una ragione, cioè a capirci qualcosa, ma a un certo punto è diventato molto difficile prendere insomma solo la parte positiva e catartica, e anche riuscire a giudicare la canzone appunto dal punto di vista appunto anche tecnico, musicale. Dice che ancora, insomma, ancora dopo che ha fatto che ha fatto il disco, è difficile da ascoltare o da eseguire. E dicevamo, come nel 2011, e c'è anche un po' di suono di MAT3, arriva Conatus, e noi di Conatus in trasmissione abbiamo ascoltato tre pezzi: Vessel, Ixod e Seekir. Adesso abbiamo scelto la altrettanto bella Avalanche, a cui è stato anche dedicato un bellissimo trattamento nel disco del 2013, di cui non ascoltiamo nulla, ma ovviamente lo citiamo, per questo viene considerato questo il quinto sesto disco, perché alcuni non considerano Versions come un vero e proprio album, ovvero l'album in cui nel 2013 ha rielaborato dei pezzi vecchi di pubblicazioni precedenti fino a Conatus, con l'aiuto di un quartetto d'archi. Quindi dicevamo, come anche il suono disco dopo disco, avendo più mezzi, diventa più pulito, cristallino, un'orchestrazione più ampia, di più ampio respiro. E anche l'evoluzione sonica, cioè sempre l'aggiunta di qualcosa, l'aggiunta di elementi acustici come le percussioni dal vivo si possono sentire in questo pezzo, gli archi, e poi anche l'aiuto di altri musicisti che suonino davvero degli strumenti non riprodotti in modo digitale, e la voce che è sempre più maestosa. E mi ricordo di averla vista la prima volta il 7 dicembre del 2011 al Covo, e già in passato ho raccontato di questo aneddoto, che nella pausa tra un pezzo e un altro lei fa un passo in avanti verso il microfono e dice: porco Dio. Oh, è vero, eh? E dicevamo di questo pezzo Avalanche, che in versione rallentata, infatti si chiama Avalanche Slow, viene contenuto in Versions del 2013, insieme al Mivos Quartet, diretto da J.G. Thirlwell, per questa rilettura orchestrale, e più un inedito fallback, delle versioni che esaltano delle caratteristiche e le potenzialità che però erano già presenti nei pezzi originali. Non è che si aggiunge tantissimo, a parte il suono degli archi, ma anche la voce cambia, perché è molto più espressiva nel cantare. Anche questo pezzo si sente la differenza, molto più espressivo, per un lavoro in collaborazione con J.G. Thirlwell, abbiamo detto, conosciuto come Fetus nell'ambito della scena industrial, che ha collaborato con i Coil, Nick Cave e Lydia Lunch. E il 2011 con Atus, il 2012 vede anche una collaborazione con gli Orbital, il loro disco Wonky, e noi ce l'ascoltiamo. È questa qui, e si chiama New Friends. di Orbital, ovvero i fratelli Phil e Paul Hartnoll, dalla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 2000, poi separazione, riunioni, adesso sembra che da quest'anno siano di nuovo in attività. Questo pezzo non lo conoscevo, ma andiamo avanti con le recensioni. Stavamo leggendo quella di AV Club, che si dice che anche nelle canzoni più pop di Taiga suonava come Katy Perry posseduta da Siux, mentre Okovi è un ritorno a casa più che una correzione di rotta, come stavo invece per scrivere io nel testo di presentazione della trasmissione. Avevo scritto correzione di rotta, poi non l'ho più scritto. Ritorno in Wisconsin, costruzione dello studio vicino al fortino dell'infanzia, disco più intimo e meno filtrato, pensieri sulla mortalità nella house stregata di Veka, che adesso ascolteremo, che parla di come le nostre parole ci sopravvivano dopo la nostra morte, e che ha un inizio strumentale di voci, di suoni, di rumori molto lungo, che per motivi di tempo ho dovuto un po' tagliare, ma che allo stesso modo ricorda This Mortal Coil di un altro pezzo di Blood, ovvero Andialù, ascoltare per credere. E poi ho trovato un'altra recensione che dà 5 stelle su 5, che non è contenuto nelle recensioni considerate da Metacritic, musicnews.com, ma mi piaceva perché diceva: l'album sull'attaccamento a noi stessi, agli altri, sui ritmi della natura e i sistemi sociali, tutti prismi o prigioni a seconda di come li percepiamo, un disco che purifica l'anima ed esorcizza i demoni. Ed ecco che arriva Veka. Questa è abbastanza cupa, qualcosa che incombe, che parla appunto della legacy, di cosa si lascia in eredità. Quando diventi polvere, chi ti ritroverà dopo i secoli? Quando le parole diventano te, quando tutto quello che hai detto nella vita è l'unica cosa che rimarrà nel futuro, ma era questo che speravi? E soprattutto uno dei pezzi più ballabili, insieme a Remains. Diciamo che la prima parte del disco è un po' più calma, molto riflessiva, invece verso la fine viene fuori questo 1-2 molto danzereccio, sempre File Under Witch House, zona predona. We'll find you. l'intento iniziale era di fare un esperimento creando musica ambient, aveva iniziato a registrare la pioggia, il rumore della pioggia, e poi ha aggiunto strati uno sull'altro, è nata la canzone con questa melodia che si è sviluppata nella sua testa. Cioè, Veka significa secoli in russo, è stato ispirato dal poema di Anna Akhmatova. Questo secolo è peggio di quelli precedenti. Io recito il poema all'inizio della canzone. E appunto il testo viene dalle domande che mi faccio io su cosa significa lasciare un'eredità, sia a livello personale che a livello proprio di specie umana. Dicevamo, questo disco ha avuto dei voti molto alti, Metacritic 91, 90, 83 addirittura da Pitchfork, e poi diversi voti sempre sopra l'8, 8, 4, 7, 4, 6, nessuna insufficienza. Andiamo avanti con quello che dice Clash Music, che gli dà un 9. Incatena in un purgatorio tra la vita che la tira da una parte e la morte che la spinge, pull of life, push of death. Produzione magistrale, grande sicurezza, i temi più pesanti in assoluto, vita e morte, affrontati e dominati in modo esperto. E un altro pezzo di Conatus molto bello è In Your Nature, che è stato pubblicato anche come singolo poi nel 2012 con una B-side di lusso, ovvero il remix fattone, ovvero il remix, la spogliata praticamente, David Lynch, e l'abbiamo voluta anticipare alla versione originale, In Your Nature, David Lynch Remix. Ed è ovvio che un artista così doveva avvicinarsi al mondo di David Lynch, al suo entourage, ai suoi amici musicisti con cui collabora da anni, e ne parleremo tra poco. Ed ecco che piano piano emerge la versione originale. Pieno della versione originale. Dicevamo 83 Pitchfork Best New Music, e non è poco. Ma qui sembra quasi 81, 82, 83, 84 dei Simple Minds. Testi più diretti come Siphon, come urgenza di rendere il messaggio e l'appello più efficace, non travisato da metafore più poetiche ma astratte. Veka, appunto, domande sull'eredità, definito a body moving banger. L'inutilità nel voler costruire qualcosa di duraturo, ovvero quindi anche l'inutilità del fare arte, ma cosa importa chi disotterrerà le nostre ossa fin tanto che possiamo usarle per ballare da vivi? Poi anche un riferimento alla copertina, dove il viso di mica è coperto da una sostanza nera, solo gli occhi sono liberi, liberi per vedere, a differenza di Stridulum che invece c'era questa sostanza nera, quasi sembra oleosa, petrolio, che le colava dalla testa e sulla faccia, quindi gli occhi liberi di vedere, libera da questa sostanza viscida che la sporca, almeno per vedere, quindi la speranza. Abbiamo detto come questo disco sia anche un ritorno alla Sacred Bones, a cui si è allontanata per un progetto ambizioso ma che forse non è andato a buon fine. Ne parleremo tra poco. Sacred Bones Records è nata nel 2007 a Brooklyn con un roster, come si dice, di tutto rispetto. Gli artisti attuali, tra gli artisti attuali c'è John Carpenter, Blank Mass, che abbiamo visto, Fallout Zoid e Jenny Kvall, che stiamo ascoltando appunto per dare rappresentanza a musiciste, donne di una scena abbastanza alternativa, sperimentale. Jenny Kvall l'amiamo, l'abbiamo dichiarato in diversi modi, con Conceptual Romance, con altri pezzi, adesso non mi ricordo, Vampire, whatever, contenuti in Blood Beach, suo disco del 2016, questa è Period Piece. Come abbiamo detto, come un disco sia stato ispirato ai film sulle vampire e alle mestruazioni. E l'abbiamo appunto voluto mettere in rappresentanza di questa etichetta. Sono anche Last for Youth, che abbiamo visto, Spring Attitude, David Lynch, Imunduo, Marissa Nadler, Pharmacon, quindi anche un'altra femmina abbastanza appesa, Psychic TV, Josef Van Wissem e Jim Jarmusch. Josef Van Wissem l'abbiamo potuto conoscere personalmente, scarrozzare ed ascoltare per Robot qualche anno fa. Hanno anche fatto un pezzo insieme, lui e Zola Jesus, in Tempum Dei, nella colonna sonora di Only Lovers Left Alive, appunto. E poi i Trouble, questo gruppo fittizio comparso in un episodio di Twin Peaks, Il Ritorno, dove alla chitarra c'è il figlio di David Lynch, alla batteria c'è Dean Harley, perché un altro membro della etichetta è appunto Dean Harley, collaboratore musicale principale di tutte le ultime opere di David Lynch, soprattutto di Twin Peaks The Return, per cui ha creato tutti gli intermezzi musicali, a parte le canzoni dei vari gruppi veri o fittizi che si vedono esibirsi al Roadhouse, e infatti tutti questi pezzi sono stati inclusi in Anthology Resource Volume 1, ovvero tutti questi pezzi strumentali creati per David Lynch e Twin Peaks. E siamo tornate a Okovi. Questo pezzo si chiama Wise Blood. But history is no more. Truth can make you. Anche questo coro con battimani. Di questo pezzo lei dice: la canzone più vecchia del disco l'ho scritta 2 anni fa, è una lettera aperta a me stessa, perché allora ero così stanca di sentirmi così inutile, sentivo di non avere nessun mezzo, nessun potere. Ma a un certo punto mi è venuto in mente che il tuo valore come persona si valuta con la tua capacità di sopportare, perché la tua forza si costruisce attraverso la sofferenza, e ho cominciato a vedere questa piccola luce attraverso il buio. nel ritornello lei si dice: ma se non ti rende, se la sofferenza non ti rende più saggio, non ti rende più forte, non ti fa vivere un po', ma cosa stai facendo? If it doesn't make you wiser, doesn't make it stronger, doesn't make you live. A cosa serve la sofferenza se non, appunto, è arrivata a questa conclusione, appunto, questa speranza che parte da uno stato di negatività, appunto la sofferenza, la capacità di soffrire, di sopportare, è quello che poi misura il nostro valore. Poi 83 Consequence of Sound, ascolto necessario per chi fa fatica a vivere, in soldoni, cambio di prospettiva come inizio, per combattere i propri demoni deve aiutare gli altri nella loro battaglia contro i loro demoni, quindi empatia, analisi di come noi siamo legati ai pesi che ci trasciniamo come ceppi alle caviglie, sintesi del lavoro passato, noise, elettronica, musica classica, che dà luogo ad un ibrido che poi è appunto il suo suono, suo proprio unico. Pezzi strumentali tra il melodramma degli Evanescence e la Björk di Vulnicura, Siphon versione goth delle Haim, un album in cui Nika si riappacifica con la vita, che è una lama a doppio taglio. E questa cos'è? È la cover fatta da Zora Jesus di Diamonds di Rihanna nel 2012, pubblicata nel suo SoundCloud. Lei ha grande rispetto per le icone pop, per Rihanna, molto di più per Beyoncé perché è una perfezionista, grande rispetto per Lady Gaga perché vuole avere un successo concreto, quantificabile, ma dice: quello che mi piace di più è Kanye, perché lui ha questa ambizione che lo guida, lui sai magari non è il miglior rapper del mondo, però lo vuole diventare, cioè tu compensi con la convinzione, l'ambizione, quello che magari ti manca di talento. Versions, che sembrava quasi una svolta, appunto con la musica classica, quartetto d'archi, così forse più serio, eccetera, nel 2014 arriva questa svolta decisa verso il synth pop, l'EDM, infatti c'è questa grande fascinazione per il pop e il mainstream, e dice: io fin da piccola volevo arrivare al numero uno della classifica di Billboard, appena ho iniziato a suonare ho sognato di suonare al Madison Square Garden, ed è per questo che fa questo salto, lascia la Secret Bone Records per andare nelle braccia della Mute Records, che le dà più mezzi per fare questo salto. Infatti sono molti video, è un'immagine più patinata per un album del 2014, Taiga, con cui appunto voleva conquistare le classifiche del pop, non ci è riuscita molto, forse da questo che è venuta la depressione, ma per riuscirci si era fatta aiutare da Dean Harley, appunto il collaboratore musicale di Lynch, che ha coprodotto questo disco, per il quale lei si è andata a rifugiare sulla Vashon Island sul Puget Sound, ovvero lo stretto, il canale che attraversa lo stato di Washington, che entra dall'oceano e poi passa davanti a Seattle, arriva fino a Olympia, per un disco che sì, aveva l'ambizione di conquistare le classifiche, ma che in realtà parla molto del rapporto con la natura. Ma adesso ci fermiamo un attimo perché andiamo avanti con Okovi. C'è un altro intermezzo strumentale a un certo punto, che è questa NMO, Not My Own, lei dice che significa. A cui abbiamo unito Remains. Ecco, questo è l'altro pezzo movimentato del disco. E c'è lo strumentale di prima, NMO, Not My Own, un esperimento sonico. Lei dice, ho fatto questo esperimento, mi è piaciuto abbastanza da volerlo tenere. E non so perché ho cominciato a cantare, io non mi appartengo, I'm not my own. È una frase che mi è venuta fuori senza pensarci, ma... ripensandoci sembra quasi un istantaneo, uno scatto di quello che in quel momento sentivo a livello del subconscio. Mentre quest'altra, Remains, è stata scritta invece dopo in seguito al trauma, la rabbia, la depressione. Che sembra che tutto sia passato, ma anche se penso di stare meglio di prima, su base quotidiana, ancora ogni giorno, combatto ancora i miei demoni. E ancora ritorna sul concetto, come Veka, di eredità. Perché siamo così fissati sul lasciare delle cose per i posteri, per gli altri? Perché sentiamo di avere questa necessità di avere uno scopo, no? Di lasciare qualcosa di valore che hai fatto nella tua vita. E questa canzone è stata fondamentale, l'aiuto del suo collaboratore più longevo, Alex de Groot. E c'è anche un passaggio musicale, un'altra evoluzione musicale del fatto che ci sono le chitarre, che io le chitarre le avevo proprio sempre messe al bando, mentre le ho ammesse in questo pezzo grazie appunto a Alex de Groot, anche se gliel'ho fatto un po' modificare per insomma cambiare appunto il suono classico della chitarra, perché non usavo le chitarre, perché non ne vedevo un uso diverso dal suono rock che poteva fare. Invece adesso sono di nuovo insomma eccitata nell'avere della chitarra nella mia musica, la curiosità di cambiare insomma il modello, l'archetipo di uno strumento. Insomma il coro è: cosa resta di noi, cosa resta di noi, è tutto qua o sono io che non lo vedo? Le rovine ci danno potere o ci danno la prova che qualcosa valeva di più, aveva un significato maggiore di quello che abbiamo vissuto. Poi 82, Face Magazine, grazia oscura, morte, forze della natura e ciò che ci trattiene blocca e inchioda, vocal pop, più ambient metal, più dance music, più classica, dark, e industrial. Forza trascinante del disco è la fluidità vocale di Nika, drammatica senza esagerare, profondamente potente e passionale. 8 anche All Music, non tutto ciò che ti lega è negativo, legame infatti con Sacred Bones Records e con il Wisconsin sono legami positivi, e qui più che mai il buio e la luce nella musica di Zola Jesus si sostengono meravigliosamente a vicenda, canzoni più reali soprattutto quando le riflessioni sulla mortalità si trasformano in inni cogli l'attimo, definito così, come Veka e Remains, canzoni che riaffermano il concetto che ballare è uno dei modi migliori di esorcizzare il dolore. Disco profondamente confortante, una produzione più pura e profonda di Zola Jesus da diversi anni a questa parte. E parlando appunto dell'universo linciano, non potevamo, anche insomma per il suono industrial e un po' cupo, non potevamo non ascoltare anche i Nine Inch Nails, Trent Reznor, che nel 2017 hanno pubblicato diverse cose, tra cui Ad Violence, un EP da cui ci stiamo ascoltando Less Than. Anche loro hanno figurato alla fine di un episodio di Twin Peaks, tra l'altro lui ha dichiarato che loro volevano presentare un altro pezzo e che Lynch non andava bene, insomma hanno dovuto scrivere un altro, quello che poi hanno eseguito, insomma di sana pianta, ma questa è Less Than. Ovviamente il pubblico di Zola Jesus e quello di Inch Nails sono molto simili, soprattutto negli Stati Uniti. Insomma, anche i Nine Inch Nails ogni tanto flirtano con il pop. Ma continuiamo a leggere. 80 Music OMH, evoluzione del suono. E 80 anche The Line of Best Fit, Covi, disco su come i traumi ci controllino e alterino, come li combattiamo e come ci riconciliamo con noi stessi dopo che il peggio è passato. Al centro del trauma la voce di Nika, forte e chiara è la forza. La voce, la forza che ti trascina ad andare avanti. 80 The Observer, ibrido perfetto tra elettronica industrial e potenti ballate dark, un album che illumina la via nelle ore più buie. 80 anche Spin, anche qui si parla di questo ibrido goth noise classico, musica eterea, non nel senso di delicata ma di ultraterrena, life embracing, quindi una scelta, così un disco pro life potremmo dire. Poi Exclaim, il blog canadese. 80, lavoro precario, synth music abrasiva, cioè nel senso il lavoro precario, nel senso tutta la musica di Zola Jesus si è sempre mossa tra queste due cose diverse, tra una synth music abrasiva però messa in strutture pop e quindi una ricerca di equilibrio difficile, perché se è troppo pop magari escono dischi sterili come Taiga, ed infatti stiamo ascoltando il mix di tre pezzi dedicati a Taiga, questo salto verso il mainstream che non è molto riuscito bene. Questo era il pezzo trascinante, il singolo Dangerous Days, a cui segue un altro singolo video, Hunger, e poi Go Blank Sea. And then I just lay here open. Che non è brutto, ma quel on the floor, on the ground è piuttosto tamarrino. E dicevamo, questo disco che in realtà parla tanto della natura, del nostro rapporto, del rapporto che l'umanità ha con il mondo naturale. We'll be right back. surfing, interazione umana con l'ambiente naturale, la taiga, la foresta boreale, canadese, scandinava, soprattutto russa nel nostro immaginario. Infatti, appunto, avendo passato l'infanzia in 100 acri di terra e foreste, è un ambiente a lei così congeniale. Appunto, il contenuto del disco parla di come l'umanità, il genere umano, sia una malattia per l'ambiente, perché gli uomini sono combattuti tra sentirsi parte del mondo naturale e alienati da esso, per questo lo vogliono conquistare con mezzi artificiali perché ne hanno paura. Appunto, concepito in questo studio in un ambiente naturale incontaminato, quasi in isolamento, passaggio alla mute per alzare la posta, e quindi uno stato di esaltazione, perché insomma passaggio da una modalità DIY, avere pochi mezzi, arrangiarsi, con invece avere tanti mezzi a disposizione per realizzare la propria visione, perché dopo tanti dischi e pezzi che parlavano di paura, dubbio, in questo disco lei proprio dichiara la sua ambizione, la sua fame, come questo pezzo, Hunger. Dicevo, questa fame di prendermi quello che voglio, quindi un senso di sicurezza, indipendenza, senza farsi ostacolare. Ma non è stata appunto neanche premiata anche dalla critica, Pitchfork che diede 5.9, è stato definito un fringe electronic industrial pop, poi appunto lei esprime questo fascino per il mainstream, ma anche un salutare terrore. Dice: una delle ragioni per cui ho lasciato Secret Bones era che sono la mia famiglia, quindi ero troppo a mio agio, troppo al sicuro con loro, e avevo bisogno di avere paura. E questo è l'ultimo pezzo che abbiamo scelto da questo disco, dove vocalmente sul ritornello si sente un po' di Cocteau. E finendo le critiche di Exclaim, allo stesso modo la voce potente e il talento per la melodia verrebbero sprecati invece in un album troppo sperimentale. Quindi da una parte tendenza, il troppo pop non va bene, troppo sperimentale non va bene, ma Okovi invece riesce a tenere le due tendenze in relativo equilibrio. Un disco confortante ed eccitante allo stesso tempo per un progetto centrato sulla tragedia. Per essere centrato così sulla tragedia, Okovi è notevolmente vitale. Allo stesso modo The Skinny 8, beat industriali, bassi tipo battito cardiaco, heart pounding bass, synth carichi di negatività, di tristezza, un'atmosfera macabra, perdita, lutto, riconciliazione. Però è il disco più profondamente commovente della sua carriera. Under the Radar 8, la tragedia può portare al trionfo, poi i 7 di Slant Background, In Sound, Pop Mario, Sun Cut, e i 6 di Record Collector, di Hawaii Magazine, Q Magazine, eccetera eccetera. Insomma, un disco bellissimo che si chiude con quest'altro pezzo come Doma. Quest'ultimo pezzo, Half Light, è dolente ma ha una nota di speranza. Lei dice: ho scritto questo pezzo in una baita, cabin, lì isolata con i miei pensieri, bloccata nel limbo. Mentre tutte le persone che mi circondavano erano nel loro proprio purgatorio. E quindi mi chiedevo se c'era una fuga dall'essere prigionieri della tua stessa mente. C'è speranza nel trovare l'euforia nei nostri momenti più bui, perché quando chiudi gli occhi l'oscurità è così nera che alla fine diventa bianca. E come il dolore va più in profondità, quasi ti punge in modo piacevole, it pierces into pleasure, e questa è la trascendenza, è questa l'essenza di essere vivi. E ho scritto Half-Life pensando appunto a questo effetto trascendentale che ti dà la sofferenza. Uno dei pochi pezzi strumentali che ho scritto, è un nuovo territorio molto eccitante. E mi piace appunto il potere evocativo della musica orchestrale, perché io come cantante faccio molta fatica nell'usare la mia voce, che è il mio strumento principale. Soprattutto perché per cantare devi usare delle parole, e quindi fare affidamento, cioè sperare che le parole reggano, stiano in piedi in un certo senso. Ed è questa il pezzo conclusivo di Okovi, un disco che evidentemente abbiamo amato, perché insomma, un po' di giorni fa, all'inizio del mese, Anna mi ha detto: sono diventata dipendente dal nuovo disco di Zola Jesus, ascoltalo. E appena ho potuto l'ho fatto, e ho deciso così di inaugurare questa nuova stagione di Might FM in attesa, lo ricordiamo, del concerto di Nika Rosa Dalinova, Zola Jesus, Zola Predona, al Locomotive, che ha una stagione pazzesca quest'anno, il 15 novembre. Buon ascolto ancora una volta da Claudia Mighty Mau.